Allora, rieccoci qua tutte insieme. La presentazione di Rosina è stata ineccepibile, come sempre. Del resto, The Voice, la nostra voce. Che volete? Io lo devo fare, se non mi mena. E quindi va bene così. Che sputti, ma comunque. Oh, va bene. Comunque, noi siamo qui con Alessia Muroni, come vi abbiamo detto prima. Abbiamo già parlato del campo di Agape, però vogliamo chiederlo ad Alessia. Che cos'è il campo lesbico di Agape, Alessia? Allora, per rispondere correttamente, mi sembra importante raccontare prima che cos'è Agape, perché non è un posto qualunque. Scusate, mi sono appena data la cuffia sul naso, quindi lacrimerà un sconforto. Lacrimerà un po', però. In diretta. Allora, dicevo, prima bisogna raccontare la realtà di Agape, che è un centro di incontro ecumenico fondato negli anni 50 sulle montagne sopra Torino, a Prali, e che è gestito dalla Tavola Valdese per conto dell'Unione delle Chiese Ecumeniche Italiane. Mm-hmm. Sì. E c'è una tradizione di accoglienza e di apertura culturale ampia, che fa sì che ci sia il campo lesbico, il campo gay, il campo politico donne. Delle donne, stava arrivando, mm-hmm. il campo politico internazionale, una serie di realtà solide ormai che vanno avanti da anni e anni, anche decenni, in cui rispetto all'elemento religioso si fa spazio ad altro, quindi insomma, ecco, in questa realtà, che è una realtà molto particolare e molto felice per quella che è la mia esperienza, si inserisce l'esperienza del campo lesbico di Agape. Di Agape, quest'anno l'abbiamo voluto sottolineare, anziché ad Agape, perché nell'ambito del progetto culturale e formativo di Agape il campo lesbico, insomma, si pone come non semplicemente come un corpo ospite, ma come un qualcosa che fa parte proprio del progetto di formazione e di crescita culturale, politica, sociale propugnato ad Agape. Bene, sì, sì, assolutamente sì. Noi abbiamo avuto anche negli altri anni ospiti che si cimentano, no? All'interno di questa realtà, e abbiamo parlato sia del campo lesbico, mm-hmm. che del campo donne, del campo politico donne. E la seconda domanda che si pone obbligatoria è che cosa ha significato quindi per te lavorare nella staff, e se per te questa è stata la prima esperienza, no? Mi sembra sì. di ricordare che è così. Allora, quindi. Sì, esatto. Innanzitutto voglio ricordare il nome delle altre componenti della staff, che sono Maria Lore, Laura Sergianpietri, Lucia Leonardi e Valentina Tugen, che è la vice direttora di Agape ed era il punto di collegamento, diciamo, fra noi della staff e il campo. Cioè Agape, in realtà. Per quel che riguarda il che cosa ha significato per me lavorare nella staff, eccetera, sì, era la prima volta che facevo questo genere di attività. Ed è stato prima di tutto un incontro bellissimo dal punto di vista umano, no? Persone diverse che abitano in città diverse, eccetera, eccetera, e che si sono trovate insieme a lavorare ad un progetto. Poi magari più avanti avremo modo magari forse di parlare di come è stato costruito, però da qui poi alla realtà dell'azione, come dire, sul posto, in quel contesto, con 70 altre donne, eccetera, lì esce fuori poi la dimensione dello sperimentarsi personalmente, no? come donne, come persone che con varie personalità, con vari atteggiamenti anche esistenziali devono arrivare a mediare, no? E a creare una rete loro, comune, certo. di collaborazione fra noi e poi ovviamente con le altre. Campiste, con certo. tutte le donne che intervengono al campo. Allora, a questo punto procedo con una domanda che volevamo farti dopo, ma forse l'hai già quasi introdotta tu, quindi è il caso magari di portela prima. E cioè, se le donne che compongono la staff vengono, come tu hai detto, da realtà diverse, da situazioni diverse, Come avete fatto a costruire il campo? Come avete fatto a lavorare insieme? Vi siete incontrate? No, sì. Allora, sì, ci siamo incontrate, diciamo, a partire dall'autunno, una volta al mese. In varie città, io sono quella più a sud, Laura e Maria sono in Toscana, Lucia è a Milano e Valentina risiede a Prali. Quindi trovavamo, come dire, una via di mezzo e attraverso questi incontri mensili in effetti abbiamo fatto proprio un lavoro su di noi, innanzitutto come a livello di, come dire, di formazione interna, cercando di conoscerci, parlando proprio molto liberamente, molto apertamente, anche a livello proprio intimo, però per tirar fuori quelle che erano le nostre aspettative, le nostre paure, le nostre difficoltà. Io, per esempio, in una situazione collettiva ampia a volte mi sento a disagio, quindi per me, cioè, è stato importante dirlo e assicurarmi, diciamo così, che in caso di crisi avrei potuto comunicarlo tranquillamente alle altre. Appoggiarti alle altre. Bene. È stato fatto, quindi questo, diciamo, da un punto di vista più personale. Dopodiché la seconda parte importante del lavoro è stata, sì, in effetti coordinarci, tu fai questo, tu fai quello, tu curi quel contatto, eccetera. E però ecco, la cosa meravigliosa, una delle cose che mi è piaciuto di più è che nel corso di questi incontri veramente abbiamo costruito un rapporto molto forte. E anche sorprendente, mi spiego, io sono la più grande del gruppo, la più giovane a quasi 20 anni di differenza. Io all'inizio, insomma, pensavo che ciò avrebbe, almeno a me, poneva dei problemi, nel senso che mi sentivo... E invece è stato bellissimo trovare punti di incontro più inaspettati e scoprire che... A volte ci, almeno parlo per me, ma insomma penso anche per le altre, ci si fanno tante visioni preconcette, no? Che poi basta semplicemente mettere alla prova perché vengano scardinate. Quindi da un punto di vista veramente umano è stata un'esperienza meravigliosa. Dal punto di vista logistico e, come dire, della preparazione dell'incontro, anche quello è stato importante, imparare a lavorare in una staff. Insieme, quindi. Insieme. Non so se vogliamo procedere con un'altra domanda. No, volevo soltanto sapere se hai detto tu non conoscevi, insomma, le compagne della staff. È stata la prima volta che avete lavorato tutte quante insieme, oppure fra di voi c'era qualcuna che aveva già lavorato? Allora due di loro, vabbè, a parte Valentina, che ovviamente Valentina Tugena è la vice direttora di Agape, cioè, quindi lei, insomma, ha una lunghissima di esperienza, come dire, ha una pluridecennale esperienza, cioè, di staff, eccetera, e nel senso che ci andava fin da bambina, cioè, ad Agape, quindi per due di diciamo, Maria e Laura erano già presenti nella staff dell'anno passato, io e Lucia eravamo le new entry, quindi c'era, diciamo, anche in questo caso una disparità di esperienza rispetto alla cosa, ed è stato veramente sorprendente vedere come poi le cose si sono amalgamate con grande naturalezza, veramente. Quindi bravissime. C'è quindi una continuità, insomma, anche nella... Sì, sicuramente c'è una continuità che però non vuole essere una, come dire, una sclerotizzazione. Abbiamo infatti deciso, insomma, cioè comunque questa staff ha lavorato quest'anno, lavorerà il prossimo, eccetera, eccetera, però come dire, senza avere l'idea, no, di occupare il campo lesbico. Man mano entreranno altre persone, ne usciranno altre, c'è un'idea di dinamicità, di inserire, no, e di rinnovarsi continuamente. Che poi è un po' quello che è accaduto nel tempo, tutto sommato, sì, no? Sì, cioè sì. Le staff. Sì, ma in altri campi, sempre... per esempio, ci sono delle staff che vanno avanti da molto più tempo. Invece il campo lesbico ha cambiato dinamicità. Sì. E... Solo tu resti incatagnata alla tua poltrona del CLR, non lasci spazio alle giovani. questo fa parte di un gioco perverso, perché sappiate che Rosina ci sta dallo stesso tempo in cui ci sto io e si è data una mano di colla, non vi dico dove. Ok, sono pratiche alternative anche queste. Anche queste. Sì, allora io direi a questo punto di, se è possibile, mandare un pezzo musicale. Il bel pezzo musicale scelto da Nancy Ammore. Sì, Nancy Ammore ce lo dice adesso. Sì, vi mando adesso Carina Round, The Last Time. Amore, non solo io. Adesso silenzio. Ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Questa trasmissione va in onda a partire dalle 21.15, vi ricordiamo che potete ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sulla icona in diretta e potete ascoltarci. Ci potete anche contattare in radio allo 06 49 1750 fino alle 22, ora in cui dovrebbe terminare la trasmissione, oppure ci potete scrivere presso la Casa Internazionale della Donna in via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. La nostra email è contatti @clrbp, potete anche mandarci un sms se siete molto tecnologiche, io ho sempre delle difficoltà, 339-853-6270. Potete anche riascoltarci oppure far ascoltare a chi volete questa trasmissione collegandovi sul blog del martedì mfla.noblogs.org. Cercate La Calamità e potete ascoltare questa trasmissione. Dunque, ritorniamo a questo punto in diretta con Alessia Muroni. E a questo punto Alessia ci ha raccontato appunto della sua esperienza di quest'anno in campo lesbico Agape. come membro della staff. A questo punto vogliamo chiedere ad Alessia se invece ha già partecipato in precedenza come appunto semplice fruitrice, come semplice campista alle passate edizioni. Dunque sì, in effetti l'anno scorso ho partecipato per la prima volta al campo ed è stata un'esperienza talmente felice che quando ho saputo che cercavano nuove entrate diciamo nella staff, mi sono proposta proprio per gratitudine, perché ho ricevuto talmente tanto che ho sentito il bisogno di dare, se non altrettanto almeno un pochino. Poi è bello fare insomma la comparazione fra chi arriva ignara al campo e invece lavorare dall'altra parte, certo. Sapere tutto quello che c'è in precedenza e poi stare lì e lì succede di tutto in ogni momento e bisogna essere pronti e tutto ciò che era stato programmato salta tranquillamente, però fa parte del gioco, della bellezza, sì, della esatto. Creatività e anche del campo, tipico delle donne, esatto, che donne saremmo se non fossimo molto creative e allegre, esatto. Molto bello. Poi tra l'altro devo dire, insomma, lei ha deciso di partecipare alla staff perché sapeva che tu non c'eri. Esattamente. Il tema di quest'anno, perché poi anche qui arriva l'aspetto interessante, no? Ogni edizione ha un tema che viene affrontato, cioè è un momento d'incontro che non segna soltanto l'aspetto dell'incontro in quanto tale, momento ludico perché c'è, momento di conoscenza perché c'è, eccetera eccetera, momento di condivisione, ma in genere viene anche affrontato un tema e viene predisposto tutto materiali o comunque laboratori e quant'altro affinché il tema che si individua venga diciamo eviscerato. Esatto, eviscerato. Allora, il tema di quest'anno era il conflitto. Come nasce quest'idea? E come vi siete organizzate affinché si potesse lavorare intorno a questo tema, che è un tema abbastanza tosto, direi. Tostissimo. Dunque sì, il tema del conflitto è sicuramente un tema interessante perché la conflittualità fa parte in modo molto, come dire, presente del mondo lesbico a livello personale, a livello politico, le interazioni o l'impossibilità dell'interazione fra i gruppi, fra le singole, eccetera. Quindi era un tema molto interessante che ci è stato, se ben ricordo, richiesto, suggerito anche da partecipanti al campo dell'anno passato. Quindi era venuto già fuori. Sì, esatto, è nato proprio da una richiesta, da un'esigenza. E sulla base di questo primo spunto ci siamo mosse innanzitutto partendo da alcuni materiali elaborati in sede delle 5 giornate lesbiche del 2010 e materiali che poi sono confluiti insomma negli atti delle 5 giornate lesbiche. A partire da questo nucleo, poi in realtà in fase di preparazione siamo andate molto lontano, nel senso che ci siamo servite, diciamo così, degli spunti iniziali per poi elaborare un percorso nostro che è stato proposto alle campiste in una serie di plenari, eccetera, eccetera. I laboratori sono stati scelti solo in parte in relazione al tema. In effetti abbiamo pensato di equilibrare, no? Diciamo appunto momenti più propriamente politici e culturali a momenti più ludici, perché comunque poi c'è tutto questo aspetto, diciamo così, di vita comunitaria, di socialità, eccetera, di Agape, che è fondamentale e che insomma può essere poi approfondito in tanti modi. E allora se possiamo approfondire ulteriormente questo tema, approfondiamolo, approfondiamo, sì. Quali sono stati, tu hai parlato di plenarie, sì. E poi di laboratori. Allora, intanto se vuoi specificare un momento la differenza tra i laboratori e le plenarie. Okay. Le plenarie erano appunto, come da nome, le sedute plenarie in cui si cercava di convogliare, sì, di accatastare tutte, esatto, le convenute nel salone. E mettendole poi alla prova, diciamo così, dei materiali proposti. Nel primo giorno la plenaria si intitolava Parole, parole, parole e era un lavoro di gruppo a partire da alcune parole chiave che erano state individuate intorno al tema del conflitto, da limite a personalità. Non mi ricordo adesso, però ecco, parole chiave. Sì, me le ricordo chiave, io, no? Perché bravo, c'ero, bravo, se vuoi te ne suggerisco qualcuno. Sì, suggeriscimele. Beh, un'altra era identità, sì, che sì, era molto bello, e un'altra era pregiudizio. Al quale tavolo ero io. Preparatissima Lucilla. Ecco, e questi gruppi di donne si sono, come dire, riunite, diciamo così, per lavorare insieme su queste parole, restituendo poi in un momento successivo al resto della comunità che si era formata lì, il lavoro di elaborazione su queste parole. E successivamente, il giorno dopo, la plenaria invece ha riguardato, se il primo giorno era di riflessione, di lavoro collettivo, e il secondo giorno ha visto un momento più storico, molto interessante, curato da Giovanna Olivieri, che ha fatto una lunga chiacchierata su femminismo e lesbismo, conflitti ed alleanze. Molto interessante, perché allora, un'altra cosa bella del campo di quest'anno è che c'erano donne veramente di tutte le età, sì, dalle giovanissime, vero, a donne abbastanza più grandi, quindi con varia esperienza politica, varia esperienza esistenziale, lesbica, eccetera, vari gradi di approfondimento. Quindi Giovanna Olivieri ha fatto questo lavoro molto interessante per tutte, veramente, di riproposizione di momenti chiave della nascita del femminismo, dell'organizzarsi, diciamo così, di un movimento lesbico indipendente dal femminismo, le possibili tensioni, eccetera. Poi ci sono stati degli approfondimenti locali, tipo si è parlato della realtà della difficile realtà della Casa Internazionale delle Donne, eccetera. Ed è stato molto, molto partecipato, cioè proprio c'era la necessità, secondo me, la volontà proprio di capire, di sapere. È stato veramente un momento molto, molto piacevole. Mm-hmm. E alla fine, l'ultima, diciamo, plenaria, se non vogliamo considerare plenaria la gita sulla neve, sulla seggiovia fatta la domenica mattina. Sì, esatto. So che qualcuna si è rifiutata di partecipare. Perché dici questo? Io avevo... caso, perché era fantastica. Io avevo soltanto paura del fatto che si potesse bloccare a causa vento la seggiovia, mi strada facendo. Mi asterrò dal ricordare Lucilla sulla ruota del Prater a Vienna, abbarbicata a un tavolinetto che ululava disperata. Maledette, fatemi scendere. Sono momenti epici, me lo posso immaginare. Momenti epici. L'ultima plenaria è stata proprio l'ultimo giorno in cui abbiamo un po' ricucito le fila. Non si trattava di fornire delle soluzioni, ovviamente, al conflitto, quanto di lanciare, no? Sì, degli spunti, eccetera. Poi noi come staff rielaboreremo. Speriamo che le campiste rielaborino. In ogni caso, speriamo che... speriamo, io sono convinta che il tema abbia interessato tutte, sì, quante, perché penso non c'è anch'io. Non c'è donna, non c'è lesbica politicamente e socialmente attiva che non inciampi potrei usare un termine, nello specifico del conflitto lesbico. È normale, nel senso che poi dal conflitto nasce tutto il resto, certo, perché certo. Confliggere, noi ormai siamo abituate a tagliare le cose troppo con l'accetta. Il conflitto è un fatto anche estremamente positivo, perché, sì, perché dà la possibilità del confronto. Beh, io, no? Devo dire che da questi diciamo scambi del riporto una definizione di Sara Bouchard è stata una delle fondatrici proprio del campo lesbico di Agape, che è stata ha partecipato come campista, ed è stato veramente un grande piacere. E in cui lei si parlava di personalità, di individualità, no? E ha enucleato l'individualità come conflitto in movimento. no? E esatto. Non so, io questa cosa me la sono segnata e ci sto lavorando. Molto bene. Bene, a questo punto Lucilla, che si sa è una donna colta, si è occupata di cose importanti, io sono una donna corta, quindi mi occuperò di qualcosa di meno pregnante, di laboratori. So che c'è stata una grande festa finale, lo so per certo perché qualcuna mi ha raccontato di essere, come dire, uscita viva per puro miracolo da questa festa. Lei dice con dignità, ma secondo me non è vero. So che vi siete molto divertite. Questa festa finale ce la racconti? Ci puoi dire qualcosa? Allora, l'elemento dello svago e del divertimento è fondamentale ad Agape, per cui ci sono stati vari laboratori di cui appunto solo in parte poi trattavano il campo del conflitto ed erano dei più diversi, dal tree climbing all'orto urbano, contatti, vari tipi di contatto, di massaggio corporeo, eccetera, lo yoga e un altro laboratorio che era la Gazzetta del Campo, quindi c'era una serie di giornaliste sparpagliate in giro per riferire proprio l'esercizio del pettegolezzo, ovviamente. Esatto, al servizio del pettegolezzo sicuramente la festa ha fornito moltissimi materiali, perché ovviamente il momento, la tensione sale e poi deve sfogarsi la festa, è il momento degli sfracelli, bellissima. Molto, ma sì, che cosa vuoi sapere? Delle cose compromettenti? Già no. Partire dal karaoke, il karaoke, ti prego, risparmiaci, ti prego. Sono, cioè, veramente molte donne hanno dato il meglio di sé. Esatto, poi è proseguito su un'onda molto alcolica fino alle prime luci dell'alba. Insomma, ho cercato di andare a dormire alle 4 del mattino, purtroppo avevo le casse proprio sotto al letto e si muoveva il letto, quindi questo rende un'idea di che cosa... Io posso dire invece, a proposito dei laboratori, che la nostra Sara Bicipite si è comportata benissimo e ha fatto salire su un albero altissimo lì davanti al salone dove poi ci si riuniva un sacco di donne che hanno continuato a fare processione fuori perché tutte volevano salire. L'ascesa delle lesbiche, processionarie, come si sa, esatto, ed è stata in grado di far salire chiunque. Non te, lei desiderava far salire anche me, ma io mi sono rifiutata e ho evitato di uscire da quella parte. Hai provocato una macchia indelebile sul curriculum, esatto, di Sara. Sara mi ha perdonato. Sara ti ha perdonato. Abbiamo il tempo giusto per un'ultima canzoncina. Ci mettiamo, e poi un'ultimissima domanda la facciamo dopo la canzone, la più compromettente. Assolutamente, esatto, sì. Ci disannuncerà. Allora, per come ultima canzone, Karen Ann, Lay Your Head Down. E vai. Seems like every story told about us isn't meant to be. We fly, our wings go all the way back home to me. But what I'm thinking of just this time, why don't you E allora siamo nuovamente qui in studio con Alessia e vorremmo fare un'ultima, vorremmo chiederle un'ultima cosa. Sappiamo che è stato presentato, cioè era presente anche uno spazio libreria che era gestito dalla libreria di Milano. Sì. E io poi sedevo al banchetto e ho speso tutti i miei soldi nel banchetto. Vabbè, pure io, non ti preoccupare, è andata così. È stato molto doloroso. Però sappiamo che è stato presentato anche un libro, una riedizione piacevolissima, che tra l'altro la presentazione l'hai fatta proprio tu, che sei stata, io ti ho fatto i complimenti perché è stata molto piacevole sentire il botta e risposta tra te e Valeria. Qual era il libro? Esatto, allora era la riedizione a distanza di 10 anni di Detto e Nonna, una raccolta degli scritti di Valeria Santini per la bollettina del clip, la mitica, la bollettina, mitica bollettina del clip. E poi Valeria ha fatto poi un'altra cosa relativa, insomma, diciamo ai momenti ludici, ma anche riflessivi. No. All'inizio del corso è stato distribuito uno dei mitici questionari. Esatto, di Valeria, che si intitolava Sei indimenticabile, qualcosa del genere, talmente indimenticabile che ho dimenticato il titolo, però, ah no, L'arte di essere indimenticabili. E l'ultima, prima della festa, c'è stata una restituzione dei risultati e un commento molto, molto divertenti. Sì, molto sagace, cioè, da parte io, di ecco, Maria. Nell'insieme mi sembra che il campo abbia alternato con una certa saggezza e giudizio, spero, momenti più di approfondimento e momenti creativi. Invito chi non ha ancora fatto questa esperienza a farla, invito anche a fare anche l'esperienza del campo donne, perché anche quello fonte di, insomma, di grandissima crescita, sperimentazione, eccetera, e anzi saluto la staff del campo donne. E va bene, noi ti ringraziamo molto e naturalmente aspettiamo un'elaborazione che sicuramente ci sarà da parte della staff. Ah sì, beh, questo ci vedremo quest'estate, adesso dobbiamo sbollire, dopodiché quest'estate ci vedremo per confrontarci su questa esperienza a partire dai fondamentali commenti che sono stati lasciati per iscritto da tutte le partecipanti. Alla fine del corso è stato distribuito una sorta di questionario così sul gradimento del campo, eccetera. Quindi, e quella sarà la base da cui ripartire per una nuova avventura verso Agape 2014. Un'ultimissima cosa. Sì? Come voi tutte sapete, Alessia è stata l'autrice di un romanzo molto felice che si chiama Circostanze dell'amore. Rispondimi con un sì o un no, stai preparando qualcos'altro? Sì, ho finito la prima bozza di Quello che siamo, così si intitola il mio secondo romanzo, e insomma sto lavorando. Allora, sarà bellissimo come il primo, lo sappiamo già, quindi a Catadville, come si dice in gergo. Lo aspettiamo, uscirà, allora. Lo aspettiamo e lo leggeremo con grande interesse. E passione. Grazie. Allora, grazie ad Alessia Muroni per essere stata con noi, grazie a Nancy. Per averci fatto la fonica grande. Grazie per l'invito. Grazie a Rosina, arrivederci. E grazie, arrivederci. Grazie a Rosina. E che naturalmente ha fatto tutta la trasmissione, l'avete ben sentito. Lucilla è stata qui che le reggeva le spalline. Va bene, arrivederci alla prossima, tra 15 giorni. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold